Non è facile descrivere la figura di Hans Zimmer, compositore, produttore discografico, tastierista, autore di molte colonne sonore cinematografiche di successo e anche capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks. In carriera ha vinto 4 Grammy Award ed è stato nominato più di 15 volte, mentre 2 sono gli Oscar su più di 10 nomination durante tutta la sua carriera. Vinti il primo per Il Re Leone nel 1995 e l'altro l'anno scorso per il remake di Dune, a cui il compositore tedesco ha fortemente voluto lavorare, rinunciando perfino a collaborare con uno dei registi che più lo hanno accompagnato durante la sua carriera, cioè Christopher Nolan. Se i più lo conoscono però come collaboratore dei registi cinematografici, il grande schermo non è stato il suo primo amore. Fino alla fine degli anni Ottanta, infatti, è stato collaboratore di artisti quali Buggles, i Crisma e gli Ultravox come turnista alle tastiere, oltre a collaborare anche con Claudio Baglioni al suo disco del 1985, La vita è adesso. Il suo mentore per quanto riguarda la scrittura di pezzi cinematografici è Stanley Myers, responsabile anche della fusione del suono orchestrale tradizionale con l'elettronica, caratteristica dello stile di Zimmer. Dalla fine degli anni Ottanta, infatti, è stato uno dei più grandi sperimentatori all'interno del mondo di compositori di colonne sonore. Sono suoi i commenti musicali che accompagnano capolavori come La sottile linea rossa, Il gladiatore, Interstellar e perfino la pellicola più recente della saga di James Bond, No Time to Die. Lo scorso venerdì 3 marzo è uscito il doppio CD e quadruplo vinile Hans Zimmer Live, registrato durante la tournée svoltasi la scorsa primavera nei palazzetti di tutta Europa. Per l'occasione, Zimmer ha composto delle nuove suite contenenti dei brani tratti dalle sue colonne sonore più famose e ha ripescato anche alcuni brani meno conosciuti. Registrato nel corso di ben 10 serate, il disco è prodotto meticolosamente, registrato quasi come se si trattasse di un'opera in studio. Il gruppo che accompagna sul palco il compositore tedesco è formato da un gruppo di 20 suoi collaboratori storici chiamato The Disruptive Collective, che comprende tra gli altri Lisa Gerrard, la celeberrima voce della colonna sonora del Gladiatore, da un'orchestra e da un coro, che riescono ad unire le componenti classiche degli arrangiamenti con la musica elettronica. A testimonianza della cura messa nella registrazione del disco e della volontà di farlo suonare quanto più pulito possibile, l'album è stato rilasciato anche in Dolby Atmos, un nuovo formato audio che circonda lo spettatore e lo immerge nella musica, quasi come se stesse assistendo al concerto vero e proprio. La tournée dell'anno scorso ha toccato anche l'Italia. A fine marzo, Hans Zimmer è stato infatti protagonista di un concerto al Forum di Assago. Ma non è tutto. Era infatti prevista una seconda data anche all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, poi annullata, che però verrà recuperata all'inizio del prossimo maggio, quando il compositore tedesco tornerà nel nostro paese per due date, una al Palalpitour di Torino e l'altra proprio all'Unipol Arena. Le nuove date italiane sono già entrambe sold out, ma questo disco dal vivo rimane un ottimo modo per gustarsi comunque lo spettacolo che Hans Zimmer porterà sul palco il prossimo maggio.